La vista diventa nebbiata, un leggero bruciore, poi un fiume salato scorre lento, si muove con calma ma avanza. Traccia un percorso regolare, perfetto, un tragitto di gioia, dolore, odio, amore, vittoria, sconfitta, ricordi, rinunce. Lascia una scia pruriginosa, porta con sé emozioni liquide che si muovono sulla carne. Un fiume caldo, straripato senza argini. Il suo viaggio sarà breve, ma carico di significato. I tuoi occhi non lo potrai mai vedere, ma non sbarrare il suo percorso, non provare a fermarlo, ti asciugherà, scomparirà, ma ricorda, non c'è più vita, non ci sono più emozioni, dove c'è aridità. Ci sono più emozioni, non c'è aridità. C'è più vita, ci sono più emozioni, non c'è aridità. Negative.